fuoco la casa. Ho fatto un casino che metà bastava, che metà bastava. Mi trema la voce, non faccio l'amore da 2 anni luce, da 2 anni luce. Un po' mi cerco, un po' mi trovo, suono lento, suono buono. Sparerei all'erede al trono, ma siamo una repubblica. Forse donna, forse uomo, questo sentimento nuovo. Sparerei all'erede al trono, ma siamo una repubblica. La notte non si pubblica, l'amore non si giudica mai. Un bacio non si supplica, non si supplica. Il fumo evapora la strada, o forse la nebbia della Valpadana. Controllo il battito del polso, tiro indietro l'orologio e mi rimetto a posto. Un po' mi cerco, un po' mi trovo, suono lento, suono buono. Sparerei all'erede al trono, ma siamo una repubblica. Forse donna, forse uomo, questo sentimento nuovo. Sparerei all'erede al trono, ma siamo una repubblica. La notte non si pubblica, l'amore non si giudica mai. Un bacio non si supplica, non si supplica. Giudica, un bacio, una repubblica, non mi riaddormento.